retro. Il mio umore non è mai lieto, proiettato dentro un mondo squallido, con il viso pallido, rappo contro un angolo. Sono un fantasma dal passato, sono ritornato con un rasoio affilato, spettro di me stesso, scrivo testi che non capisci, illumino gli indizi e sentuisci la soluzione, varcherai le soglie della condizione, sarai toccato dalla maledizione, preparati per venti di sconfitta, la tortura inflitta da una mano trafitta, rapper anti-gangsta, le tue gesta simulate, ispirate da Scarface sono sbeffeggiate, qui vige rockabilly rap, la cultura maledetta si intromette nella tua città. Questa è la zona industriale. Domandami come sto e ti rispondo. Repo la zona industriale. Domandami come sto e ti rispondo. Alle 8 inizia il turno di lavoro, la mattina non all'ora, in bocca solo odore di caffè e di sigaretta e la fretta di entrare per evitare che di mattinata qualcuno inizi a scassare. Ma la mente non la regge questa legge, perché interiormente non siamo pecore in un gregge, ognuno ha la sua cazzo d'identità. Manda a fanculo tutti quanti se qualcosa non ti va. Io non capisco perché il rapper atteggiato debba avere il cane, giro col gatto in zona industriale. La fantasia è la mia arma di rivalsa, spacco il film anche da comparsa. Tu lasciami stare, non sai rappare, le cazzate che racconti non si possono ascoltare. Io sono un rapper di 30 anni con lo studio e quello che so fare è solo rap zona industriale. Questa è la zona industriale. Domandami come sto e ti rispondo. La zona industriale. Domandami come sto e ti rispondo. Questa è la zona industriale. Domandami come sto e ti rispondo. Rappo la zona industriale. Domandami come sto. Questa è la zona industriale. Domandami come sto e ti rispondo. Benvenuti in zona industriale. Domandami come sto e ti rispondo. Domandami come sto e ti rispondo. Domandami come sto. Domandami come sto e ti rispondo. Domandami come sto e ti rispondo.